guardo con sé. Cerco un'immagine, ma lui non c'è. Soffia la brezza dal nord, sento una voce, chi è? Corro, l'inseguo, però lui non c'è. Straniera che vuoi più da me, la solitudine ormai è il solo amico che ho, non mi abbandonerà mai. Tanta tristezza così, io la dimenticherò, soltanto quando da qui partirò. Limpido fiume del sud, presto laggiù tornerò, per non andarmene più, io lo so. Yeah.